Hola, 1, 2, 3, prova. Hola, hola, hola, hola. Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, prova radio. Hola, prova radio, cambio. 1, 2, 3, prova. Hola, 1, 2, 3, hola, hola, hola. Hola, hola. Attenzione, canale 10, cambio. Ma vuoi finire? Luca, come sto uscendo? Dato, scendo bene. No, stavo mettendo a posto il microfono, non usciva lì il radio. Già, esci il radio. Da mettere se non tu dici il recio. Scusa, devo di 40. Che messo? Il massimo, Dai, già, sono appena rientrato, io vado a fare una sciacquata. Tu vieni a male? No. Un pugno. Che pangiura ti prende, così che cugliere. A fare un po' di sviga, fresco. Che è buona, La figa è buona. Cavolo. Anche la figa libia mi piace, e anche... Non so cosa mi piace anche, le mole di gelso, non so se le conosci. Sì? Le mole di gelso. Le mole, quelle che ne crescono nel... No, quelle lì sono le mole del rombo. Quelle di gesso, che sono più grosse, e poi ti macchiano bene, devi stare un bel tempo perché ti macchiano le mani e tutto, ma sono così dolci. Ho capito. A frappeggia. Prendiamo la sciacquata. Sono tutto a caldo. Gianni, buonasera. Qui la tua. Buonasera a te Luca, buonasera a tutti, buonasera. E allora, che si dice? Ma... ci voleva molto c'è cosa, vintureggia un poco. Ora, ora, già sta andando, sì. Ehi, Antu, ciao, sono asciugami a guglio. Qualcuno qua? Ma pronti? Sì, buonasera, buonasera, buonasera. Come esco con questo baracchino? Mario, direzione Porto Torres. Escendo bene, Mario, Radio 5. Io ve le grazie, molto gentili, continuate pure. Sì, anche qua tutto bene, sei zona verso Porto Torres, tutto Roger, avanti Antu. Santiago 910 Radio 5, capo. 95 Radio 5 per me. Grazie, siete gentilissimi, sto provando un albero che appena comprato qua. Sono in direzione Porto Torres, la Sassari, e niente, sono a parramobile chiaramente, e niente, volevo soltanto sapere come esco, perché l'apparato è nuovo di zecca, arrivato oggi, grazie comunque, continuate pure in queste ore. Una bella radio, pulita e chiara. Capo, anche da parte mia, Ciao a tutti, buona serata. Ciao Mario, sei nuovo o sei vecchio stampo? Io da 74 che modulo, ma ora ti dico, io vivevo lontano da qua, dalla Sardegna, sempre vissuto al nord e ora diciamo sono tornato per questioni pensionistiche, dai, insomma, nato a Sassari chiaramente, sono così a Sareggio e quindi, ma la passione del baracchino dal 1974 fino ad oggi, ora ho ricomprato due apparati e appunto ne stavo provando, però sì, direi che sono abbastanza soddisfatto con l'antennina piccolina che mi ritrovo, direi che va tutto bene. Che tipo di antenne hai messo Mario? Stanno bene? No, sono di quelle antenne da 30 euro, di quelle antenne caricate, alte, credo, ma non so se arriva a 1,30 m più o meno, non so come si chiama, una roba americana credo. Buona, va bene. Ma tanto io devo lasciare che ho lasciato tutto il disordine che stavo mettendo a posto quel microfono che non usciva, che sarebbe questo. Ci voleva solo un po' di cerricina, un po' sporco. Capo, non c'è problema. Non c'è problema già, non ti preoccupare. Poi se ci sei rientro, devo mettere a posto il tuo rientro. Capo, ok. Capo, io ti sento sempre l'amico. Ciao, sentiamo, chi è che vuole entrare a parte? Chi vuole entrare? Ma no, ho sentito un'altra modulazione. secondi, Antone. Due secondi, uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre. Ma ti stai centrando, ti stai. Hola, chicos. Hola, hola. Vabbè, Antone. Allora, come andiamo? Bene, bene. Meglio così, sono contento. Scappa, oggi sono passato al circolo. Ah, quello di giù o quello dove vado io di solito? Cioè di solito. Vado a giocare con i velenanti. No, io vado a quello che vado io. In Viale Dante, che c'è in Viale Dante? In Via Torino per esattezza. Il circolo Lunghi Arena, là. Fratello di Giuseppe Leoncino. Ho capito. Ci vado ogni tanto, ma ci vado tutti i giorni, cazzo. Ora sono ricco, lo so. Una volta che usiamo la moto ci andavo tutti i giorni. La passeggiata lì, avevo un paio di birre, poi me ne tornavo a casa. Ma allora adesso le cose sono cambiate, prima c'avevo il lavoro 25 ore al giorno, quelli che erano, ma almeno in moto mi divertivo. Poi la moto è attaccata a Ciucchintata, che andavi da in Chivi. Ma io adesso già mi piglio quella moto a tre ruote, quella UFO, come cavolo si chiama, quella che c'ha il coso, cazzo. Però quella, hai capito, quella viene male a roballa. Come quella che c'ha Ciccio. UFO Curi, brida, quella lì mi sto ordinando. Non so per incassare i soldi, immediatamente me la ordino. E utilizzo quella e cazzo non ce la faccio più a fare la salita dallo sfin di giù fino a qui con due buste piene, ma ce la faccio. Cazzo, mi fanno male già le gambe mie, lo sai. Ogni arrivo, a zaffala. Non è come prima, no? Una volta c'avevo 20 anni, prendevo e mi mangiavo, facevo da casa, da qui me, fino al centro storico, dal centro storico direttamente di nuovo di qui, a piedi me, tutti i giorni. E stavo bene, adesso le cose sono cambiate, c'ho l'età che c'ho, mi muovo a fare tutta quella passeggiata. Non so, o ti pigli un transetti, o se no ti mai fatto a passeggiare. Un'altra volta sono sceso l'acqua a piedi e mi sono fatto tutto il giro di via Napoli, eccetera, eccetera. Quando sono arrivato quasi da lì, come è passato il tram a fianco, figurati tu, lo stesso percorso quasi ho fatto. Tu c'hai la tua età, c'hai. Appunto, cioè, l'età che c'ho è così facile da fare le passeggiate a piedi come una volta. O sei sorprendetemi. Sai quanta gente sta prendendo, non è notato su internet, le direttive, i tralicci. Perché arrivata a quell'età lì, dice, prima avevo 20 anni, prendevo, salivo sopra il tralicio, mi piazzavo la direttiva, quello che era, ma un cazzo ci salgo, gli ha detto. Vabbè, dipende, c'è gente dell'età tua che ancora, oiuia. Vabbè, oiuia, ho visto gente che, anzi, appena più grande di me, tutta messa male, mica. Fino a, per dire, 3-4 anni prima prendeva, faceva i lavori, saliva sopra i tetti, faceva impianti di antenna. Una volta che ha avuto che prende i dolori alle mani, eccetera, eccetera, si è fottuto. Io ho l'artrite, insomma, e quindi hai capito il rischio cos'è. Mi si incriccano le mani, ti voglio vedere se quando prendi un palo cazzo comincia a rigidirsi, ti fa male la mano a me. Cosa vuoi fare? Dai, cosa succede? successo? No, ho detto la trite, da che cosa te ne sei bigliata? La trite ho preso a forza io quando andavo in campagna con Babbo, in piena vela di andare a lavare i fiocchi, cazzo. Capito? Perché Babbo mi portava in campagna tutti i giorni, mattina, dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 6 e mezzo alle 7. Faceva la verdura e sempre le mani immesse nell'acqua, capito? Sia l'inverno sia l'estate. Ecco. Ma Marco ti pagava? Il babbo o a Corti pagava? Allora già ce l'avevi a Corti caendo, non ti preoccupare. Infatti si era crepato due macchine per quello, nuove nuove. Prima la 127 era, me lo ricordo ancora, era, cioè, come cazzo di colore era, aspetta, 127 era bianca, cioè non bianca, la vittima era bianca, e la 127 aveva comprato era azzurro verde mare, figurati, quando l'ha consegnata è sceso tutto il cofano in terra di dietro. Una cosa. Perché ci metteva la verdura, hai capito? Cosa faceva nell'otto che ci avevamo? Mettava la verdura e la portava in, come si chiama? Alla frutta e verdura. Mazzi di persevolo, finocchi, quello che era, capito? Dovrei abbigliarsi un furgoncino invece c'è una macchina. Quando è andato in pensione ha preso, si è pigliato quest'otto, ha cominciato a fare così e piantava e poi dovevo andare io a lavare, capito? No, non c'era il coso, dovevi andare in una specie di in quelle vasche da bagno vecchie, mi te lo ricordi, prendevi la verdura e la lavavi da dentro, quando l'acqua era ghiacciata ci dovevi mettere le mani dentro, lavare la verdura, poi una volta lavata dovevi mettere i mazzi, metterla dentro le cassette e poi consegnarla, quindi la verdura è bella tutta bagnata, sia quello, sia i lavarelli, di tutto, fave, e alla fine avevo le balle piene, quando poi Babbo è morto a giubilato, ho detto vai a fanculo, tu e la campagna, gli ho detto. Non so, ma se non mi aveva la dure di nano per andare a due, non ti preoccupare. No, non mi ha dato manco la vita a me, Babbo. Niente soldi, anzi parecchie volte ci andavamo pure a piedi, non solo l'altro, in campagna, da Berizzito. Da lì, fino ad arrivare per il panottore, se tu immaginati, io sai il pezzo che c'è, magari arrivare dove c'è Bidessi, che c'è la curva, con quella specie di piante che ci sono, manco ti vedono. Allora non c'era quello che hanno fatto adesso, la mezzeria, diciamo, con i pali della luce, prima non c'era per niente, quindi dovevi stare molto attento come camminavi, secondo me ti pigliavano in pieno. A me non mi avrebbe dato i soldi, con un gatto per andare a dubbi a travagliare. Non ti preoccupare tu. Tu hai fatto male, hai fatto, perché dovevi mandare subito in affanculo. Scusa se te lo dico. Se lo facevi così è un casino, capito? Quindi, mamma era d'accordo e cosa vuoi fare? Quindi l'unico imbecille ero io a stare lì tutti i giorni buttato. D'inverno, d'estate, infatti mi sono pigliato la trite, capito? Poi una cosa di bello c'era quello vicino a Babbo che cosa faceva? Prendeva, piantava le pomodori e cose del genere in mezzo all'erba, capito? Cioè Babbo l'erba la toglieva con la trappetta, questo l'erba lasciava la roba in mezzo all'erba. Cazzo, ma uscivano certi pomodori, me, allucinanti, cazzo. Capo, perché un conto è farlo ogni tanto, però stare tutto il giorno lì per obbligo io non ci sarei stato. Mi sarei incazzato, mi sarei ribellato, inutile che mi sarei ribellato di brutto. Lo so, ma cosa facevo? Era appena, avevo appena finito le scuole, avevo appena, appena preso il diploma, quindi a un certo punto dicevo non vuoi andare a coso a lavorare, quindi vieni con me, mi ha detto, hai capito? Sì, vengo con te, ma mi dai dei burri di naso, non me ne vado a lavorare. Oh, non mi ha dato mai niente in vita mia, per carità. Infatti con la campagna, sono almeno da quando è morto mio padre che non ci vado. Sono andato me, qualche volta con Giampiero, a tagliare erba. Viene tagliare, cazzo, più cresceva e noi attiravano più verba. Fino a un certo punto ho detto a Giampiero, ma cosa cazzo te lo, ce lo fa fare? Ho detto, scusa, ho detto, scendere in campagna. Quando c'è sfogliatore, ho detto, nuovo, ho detto, vabbè, che aveva pagato quasi 800 euro. Ho detto, ci mettiamo, ho detto, la benzina. Ho detto, la benzina per il sfogliatore, e poi dopo 4-5 giorni, ho detto, peggio di prima. Poi le visa, ho detto, la moto zappa, eccetera, eccetera. Per tagliare erba, ma se la biglia in curva, ci ho detto, la campagna che cazzo l'ha fatta, ho detto. Non so, adesso comunque ti obbligano a me. Ah, già c'è un tipo, ho visto, ha detto Giovanna che ci sta dormendo un tipo lì in campagna, gli ho detto, ah, per me però può anche crepare di quello, non me la fotti nulla. L'importante è che questo inverno, per sbaglio, non scendiamo anche passata lì di cosa, si allaga tutto e lo troviamo a Palo Torres. Non so. Ma non è fatta di quella roba, ma che non la vendite? Cioè cosa cazzo vi dite adesso, di cosa ve ne vedete che c'è la mondetta? Io non ne faccio niente, la verità. Poi Giampiero la vuole lasciare, mi ha sollevato tanto, quindi ho detto, mangiate, mi va a far culo, a me non mi cercate. Non sai che però ce la devi prendere, la parte deve essere uguale per tutti. Sì, quello già lo so anch'io. Quando faremo il come si chiama ci sarà la parte per tutti, siamo in tre, quindi dobbiamo dividere per tre, sia questo appartamento, sia l'appartamento che c'è giù, sia la campagna, quindi capito, il discorso è quello lì. L'appartamento, ma ci abita tua sorella? Ma l'appartamento mica è suo, quello è un cazzo, ma dove le fate la cosa vivo e la divide le siamo tre, siamo tre figli. Divide le tutti uguali. Capa. Appunto. Deve dividere sì, Antone. Vabbè, comunque già va bene. Va bene, ci abitate voi e cosa? Così è. Purtroppo la tassa è quella. Ancora ce l'è. Grazie a Dio. A me non ci c'è qualche cantone là sopra che... non si vede più un cazzo, facciamo solo le teste, mi faccio la... il coso di là io qui, non è che ci metto un punto, che vado al cimitero, mi sistemo la casetta, mi faccio il coso di lì, a me non fa un cazzo. Fai così Antone, fai così fai, cosa vuoi che ti dica? Però cazzo, tenere una cosa che non serve a niente, secondo me non ha senso. Cioè, quella campagna ne facevate qualcosa, ma... cioè, tenere una cosa così non ha senso. Appunto per quello. Se sono... si vede se questa cosa può fare. Siamo in tre, quindi a decidere. Ognuno pensa come vuole, quindi... di seguito si vede un pochettino. Gaffa, sì, troppo, io a mio referente, la mia data subito, tanto te la vuoi pigliare, vai a tirare il caffè. Te la stavo mettendo adesso, Che cosa? La portata, che cosa? Ma perché mi passa? Con la musica, sì, senza musica, no? Ah, che un miserabile. Ah, aspetta che ti sto scaldando, Antone. Ma ti sei parlato con qualcuno? E saluti, ma è una portante. Aspetta 5 minuti. Adesso sì, comandino mio. Allora, vai a cambiare la canna, vai. Più scalda e più va, più scalda e più va. Perché devo aspettare che un pochettino la valvola entra in coso. Adesso puoi giocarti quanto cazzo vuoi. Di lusso diceva quello. Adesso ti attacca il cazzo, va. Aiuto, gioca quanto vuoi. Adesso puoi giocare quanto vuoi, da, tutti dinne. Adesso passi tu. Ma passi di brutto. A rubasso, no. Vai a rompermi il coglione, vai. Ora cazzo ti metti la porta. Ancora non hai gara di girare le palle alla niente. la potenza adesso. Coglione. Fattore, vai sull'11. Mamma mia, anni di giudizio a cosa? Lo so, lo so. Gappa, un attimino in bagno vado. Occhio, adesso qui, ti che cosa? Ci sono un paio delle fogne. Chi lo fa la pipì in compagnia, là non spia. Sei andato giusto. Eccomi. Jimmy, una bella ruzzita di salsiccione. Ce l'ha voluta. Non è che la puoi fare così, no? Io lo sai che ci sono sempre gli avvoltori del vicino di casa. Se sei più di 5 persone è capace di chiamare i carabinieri, cazzo. Tanto Jimmy, io lo sai che gli è la gente che c'è. No, non c'è più quella regola. Vabbè, sono aumentati i casi di Covid stasera. Un bel cesso. Al produttore sembra una presa per il culo. Tutti si hanno fatto il vaccino, il primo, il secondo, tutti col Covid sono, cazzo. Cazzo, una cosa allucinante. Ma che cazzo abbiamo fatto a fare il vaccino, cazzo, a essere presi per il culo? Vai, devi farci furgare la canna, vai, che te la prendono per il culo. Però dico una cosa, come vaccinarti, non se la prendono qualcuno di Novax, me. Ah, sono intera casa di riposo, amico, compreso tutti quelli che ci sono dentro e lavorano, tutti positivi al Covid, so, tutti. Siamo presi nuovi sintomi, siamo presi lievi, ma siamo presi del coso. Ma dimmi tu, cazzo, cioè hanno fatto il vaccino tutti quanti lì, compresi quelli che lavorano, come cazzo hanno fatto a prendere il Covid se sono chiusi dentro, cazzo? Boh, perché di quelli che porta gli alimenti, gli alimentari, cioè, capito, lì magari in quella casa di riposo, magari lui era positivo, non se ne sono accorti e si sono passati tutti, ha detto da uno e si sono passati tutti. Ma tu immaginati, erano tutti cazzo belli, tranquilli, vaccinati, il discorso è quello, cioè a un certo punto se sei vaccinato, sei coperto, non è che, come fai a riprendere di nuovo il Covid se sei vaccinato, cazzo, boh. Sì, quindi tu puoi riprendere, però è in fase molto molto leggera, capito? Non pesante essere ricoverato al superstigio. Ecco, allora funziona così. Te lo puoi prendere, però è in funzione leggera, ti pigli una tachipirina e ti basta tutto. Capito? Sì, non è che sia così facile. Non ne so che cosa. Invece di finire all'ospedale non ci vai, però ti prendono e che ti buoni rompere il coglione, ti rompono, ti vogliono buttare in quarantena e cose, però non è esattamente così, ti prendono la tachipirina e ti passa, capito? Sono su di quello, sì, avanti un po'. Che da ogni storia ne fanno una cosa esagerata. Sembra una tarantella napoletana, sembra. No, se su Facebook c'è una tipa, è un paese di nazisti, fascisti, santi musulini, di Hitler, come fanno i vaccini. Ma una cosa, questo vaccino lo stanno facendo per non finire all'ospedale, magari ce l'hai, non lo sai. Ti prendi un mal di gambo, una cosa, ti prendi fuori, però la gente è anche esagerata, La gente va da subito a rifidarsi, si sente un sintomo, rompe le balle, va subito all'ospedale, rompe le palle, ma piglia della tachipirina che gli ha di mutuo, vai. Se tu noti, il 90% di quei ricoverati sono tutti non vaccinati. Già lo so già. Ho preso una persona che conosco che ne prende in bocco di storia per una punturina. Una punturina, cazzo, proprio. Tu mi finisci, ho sentito il cacchio. Ma è solo per quello, mi ancora la gente non ha capito. È solo per non finire a ripidare. E boh. Ma poi alla fine magari ce la potremmo avere anche noi, io no. C'ho un mal di testa per dire tanti giorni. C'è un pochettino di mal di testa qualche volta. Magari ce lo potrei avere come non ce lo potrei avere. Ma io mi piglio i medicini e mi sto zitto, non me la fatti nulla, sono vaccinato lo stesso. Ma guarda, io per la verità io faccio un tampone ogni due mesi, perché lavoro in mezzo a sportivi e facevo le tre campi di calcetto e di tennis, allora il tampone ne faccio uno ogni due mesi. A me non mi interessa nemmeno. Ma perché io ce la vuoi in mezzo alla gente, a sportivi, capito? Allora devo farlo per salute mia e della mia famiglia. Chiappa, no, io non ne ho mai fatto tampone. Non voglio che mi appioppano a che cosa da voi, o Giulia. Ecco, io sono l'unico che qua muove la baracca. E come fa? E come si fa? No. Perché a casa io cosa che sono secondo te? Sono tutto quanto io a casa me. Spesa, bollette, quello, quell'altro, tutto quanto io gioco a casa me. Lo so, cioè io non posso lasciare. Cioè, come fa la mia, può fare quello che può fare, fa nelle sue forze, e come fa a fare tutto? No. No, io non mi faccio coinvolgere da questi qua. Ma guarda, sono la verità, io sono tranquillo perché sono fuori, lo faccio perché c'è la gente e purtroppo devo farlo. Però sono tranquillissimo perché grazie a Dio nessun sintomo ho mai avuto, grazie a Dio ancora. Ma io sono tranquillo lo stesso, quindi qualche mal di testa, ma quello ogni tanto mi viene. E perché a me mal di testa viene, ma sono felice a fare, però direttamente io. Ma soprattutto quando tengo questi fiacchi, cuzzinenti, questi bucaccione di osso, mi viene ancora di più il mal di testa. Per carità, cazzo, ma io cucino, cazzo, ma ne esce un profumino da casa. Questi sono pudre di cazzo, sono, cucinando. c'è il gatto di Mau Mau. Con fuori di Mamoto a Cota Rossa. Mamma mia che odore che c'è. Sì, ci vuole pazienza, tu ci vuole pazienza. Ma non è possibile, no. Pure io cucino, ma a casa mia c'è un bel profumo. Questo è un profumo che ti entra putrido proprio. Ma caramara ti fate venire. Ma mi faccio, poi mi sono una bella zona pure. Ma a me fa schifo questa roba, questa cosa qua. Ma vabbè, di campagna, per cancello, non ho nessuno, ma deve fare scatole, io sono tranquillo. Purtroppo è così, cosa vai? Infatti in quella zona se non c'è BTV mai, neanche se mi paghi a peso loro quanto ho preso io. Mamma mia qua. E io non sono leggero, Dio mio. Quando cuciniamo noi c'è un bel profumo. Qua c'è odore putrido che ti prende le narici. Ma se profumi sono, se posso dire, un patato, no? Che profumi qui? No, non profumo di bambino molto, scappa da tennis, cotti alla braccia, c'è qualche topolino. Mamma mia, guarda. Ah, che non è nulla, ci ho vissuto io 4 anni e mezzo, tra brasiliani e nigeriani, cazzo, non ti dico nulla, l'odore di aglio, ma aglio, cazzo, di tutto, cazzo, ci metto, cazzo, peperone, fanno riso, fanno di cose strane, cazzo, per carità, cazzo, quando poi lo mangi, cazzo, talmente piccante, cazzo, che ti fa rettare, non dirlo a me, ti sono risente, ci ho abitato di me, ormai ero abituato a me, al ritorno quando, l'unica cosa che mi dava fastidio quando io cucinavo, che loro si facevano la doccia, ma scendeva cazzo l'acqua della doccia, cazzo con la pasta, cazzo un giorno mi sono girato i coglioni, ho preso, sono sceso giù, ho chiuso il rubinetto, è rimasta cazzo senza la farsi la doccia per 3 giorni, gli ho detto dove in poi, gli ho detto la doccia te la fai, gli ho detto al ponte di Rosello. Hai fatto bene. Ma scusa, ma sicuramente non era riparata la cosa. Non è questo che si ripara la doccia, in pratica non avevo messo silicone, capito, la padrona di casa, e quindi quando si chiudevano l'acqua usciva fuori, siccome il pavimento era in legno e sotto al legno non c'era nulla, capito, scendeva direttamente in casa mia, anche perché il profumo era di legno, quindi se camminavi sentivano i passi, tutto si sentiva, anche quando andavano a fare ciuccucciumi, lo sentivi gridare. Mi sono fatto qualche giorno per dare detto, ti chiamano i carabinieri a te, gli ho detto, a dove grida, ma me lo se ne vengono subito, mi ha detto. Così ti ha detto. Così mi ha detto. Ma ha giocato, la prossima volta ha detto, quando ha detto, vedi così sai cosa faccio, ha detto, ti metto il cerotto in bocca, e ha detto, una carota in culo. Pure di chissà maniera era. Un limone in bocca, una carota nel culo. Pure di quella maniera lì era, boh. Allora, per carità, guarda. L'unica cosa di bello era quella via che quando scendevano i candelieri non facevo altro che scendere sotto casa e andavo al bar, c'era un bar davanti, un bar sotto, poi c'era una pizzeria e cose del genere, c'avevo tutto attaccato, poi vabbè, se andavo, dovevo andare al supermercato, andavo alle coce, facevo la spesa in moto e tornavo direttamente a casa, parcheggiavo la moto dentro il portone e salivo la spesa, solo per quello era bello. Meglio bello, capo. No, anche qua già c'è tutto, già c'è. Adesso qua hanno aperto anche Piromi qua vicino. Chi ha aperto Pino? Il supermercato. Vabbè, adesso un giorno non ci passo lì, già c'è tutto storico. Piazza della Colonna Maria, vicino a Bruno. Già ti ho capito, lì c'era la Cove che prima. Ehi, già posso trovarti, vai. A chi, a me? No, mamma è a casa, stai. Va bene. Infatti non mi racconti perché non bevo quando guido. Cosa? Se quando guido non bevo io. Già lo so già che già ciucci. Ciao, ciao. Buonasera. Sì, sono per salutare. Ciao Antonio, ciao Antonello. Ciao anche, se non mi sbaglio Fabrizio. Ok, vai. Mi sto ascoltando e sto facendo cose. Ciao Antonio, riprendi. Ciao, ciao. No, ti sbagli proprio perché è Cristian. Vabbè, Cristian, io mi sbaglio sempre, va. Ciao Cristian, ben sentito, sempre fuori di te, stavo alla radio, non c'è nulla proprio, tutto fatto. Ok, altro riprendi, quello di bene, ciao. Ciao Mari, salutori. Ben sentito dopo tanto, la verità. E ora, vabbè, subito avevo visto che non c'è più nessuno, e tu, io non stavo neanche più entrando, vivo da lì giù. Quindi, oggi siete al telefono ogni tanto, se no questo periodo, è un casinato, salve la signora, speriamo sia bene, vai. Ok, già accendiamo un cavo, Antonio. Riprendi Antonio, la famiglia è così, vai, ciao. Mia, ciao Mari, ci sentiamo alle prossime, stammi bene. Avanti, tanto. Vai, capo, ci sentiamo alle prossime, Mari. No, c'era gente, Antonio. Avanti, Cristian. Ma Mari, ci sentiamo alle prossime. Ma lo so, Antonio. Sì, se non ho capito nulla, ma abbassa con la radio, non si capisce nulla. Ehi, ma lo so. Io non so, ma tu lo capisci anche tu? Non più di tanto. E tu lo sai, ma io se lo sai, non lo so, probabilmente non sono io, avanti tu. Cappa, non lo so, il calefre è toccato là. Ma io non guarda, io qui c'ho... Questo qui è un barattino semplicissimo, sono stato verificato e basta. No, io già ti sento. Anch'io lo sento, anche scusate. Anch'io lo sento bene come segnale, ma come la radio, non lo so. Va bene, scusate, quanto riprende per me così ti va. Ciao Cristian. Ciao Mario, buon correttivo e buon tutto, ci siamo le prossime. Il giorno che becco, guarda, Nino, non lo so. Qualche mica di birra te lo faccio bene, va. Riprendi tu, ciao, come ti per me. La macchina già la conosci, ho una lemma sulla capota, c'è da capota. Adesso sinceramente non ho capito nulla. Comunque già probabilmente ci conosciamo, là. Io abitavo la Torre, comunque, la Torre piccolino. Va bene, tu riprendo, e io chiudo, sono qua, mi stanno chiamando, sono mi sbatto un fuori da casa, ciao. Non abita per attirarsi, un po' da ne va. Ok, ciao ciao Mari. Ehi, poi va, ci ho visto 20 anni. 20 anni, non comunque. Adesso l'ho fatto, va. Ci manco 2 giorni, ciao, ciao. Ciao ciao. Ma ho capito che Cristian sia, Cristian c'è, ce ne sono tanti. C'è Cristian di Trattaona, Cristian il marito di Bambolina, non lo so, boh. Il fratello della tua riserva. Chi? Il fratello della tua riserva. Ah! Il fratello della tua riserva, sì. Basta. Ho capito. Ma io credo che di Cristalera secondo te. Cazzo, c'è un fratello che c'ha tutto, cazzo. Fatti la leva, l'uomo gli ho l'antenna, cazzo. Un bel baracchino, eccetera, eccetera. Cosa che deve fare tuo fratello? Lo prendi per le ore che dice ascolta, allegami un po' di roba. Il baracchino lo voglio tu con il microfono, l'antenna lo faccio non fare io da... L'antenna lo faccio non fare io. Cazzo. Adesso ho capito, cazzo. Cioè, hai fatto un tecnico e non approfitti. Mi sei fatto dare tutto gratis, mi sei fatto dare antenna, cavo. Quello che c'è. Avanti, Anto. Tagliano un'altra qualcosa, non è così, no? Ma non si sia non si non è, scendeva la mazza, va dargli una bella antenna. Ma lui è in macchina. Ah, se è macchina lo discorso diverso, ma dove cavolo è? La te veloce. Sulla Budi. Alla Budi Budi. Basta. Non è alto il segnale comunque. Perché la Woody Woody dovesse arrivare a meno 7-8 di segnale. Ma se volete una vallata per adesso, non sei nato per 3 mesi, sono la lemma. A meno che non sei la Woody Woody proprio quasi alla... l'incrocio per la data a Tamola? A me sa su di Busi, sa tra Tamola e Sagrazella. Ho capito, ho capito. Ci fa bene, ci fa bene. Avanti a tu. Anzi, sta arrivando abbastanza per dove con un'altra di macchina, cosa vuoi? Vabbè, anche le macchine ce ne ho anch'io. C'ho la Turbo 2001 qua. E poi mi hanno regalato una boomerang, che mi hanno regalato l'altro giorno. Una boomerang? E chi ce l'ha data? Antonio me l'ha data, Antonio Cucuto si chiama. Abita qua quale... cioè... si è malato con la moglie, abitava su dove c'è Corea, capito? Mi ha detto, Antonio, ti devo dare l'antenna, dice, tanto io non mi faccio niente, anche le baracchine, ma non so che antenna sia. Ma io ho detto, quando vuoi, me la porti, me l'ha portata un giorno, mi dice, questa qui, Antonio. Una boomerang mi ha legato, lunga un metro e... insomma, 1,10 m, tutta bella caricata nera, con lo stiletto da regolare. Ah, è la mini boomerang. E la caricata, non è che sia la boomerang quella dove... già ho capito quella che sei seduto. Quella 2,20 m, no, non è quella, questa è caricata. La boomerang è un altro discorso, la mini boomerang è così, ma quello che va. E vabbè, già va bene, non è che non va di bene, ha voglia, ma se avanza. C'è la voglia. No, ma la boomerang è un altro discorso, quella grande. E già lo so anch'io. E ha avuto antenne, cuore, di tutto ha avuto di quelle antenne. Se sono state in giro, buttate dentro il garage, cose del genere, magari riesci a trovare anche qualche super retibus per sbaglio da qualcuno, mi. Basta fare trasloco di roba vecchia, capito? E trovi l'antenna giusta, ma come te lo aspetti magari, qualche garage, come trovare, cioè come andare, tutto tanto vedi di fare un trasloco di qualche cantina, ti trovi di quelle molto antiche, là. Quelle che proprio piacciono a te, figurati. Bianco Pereira, Tigre, dai. Belle ciò. Ce n'è di roba dentro il garage abbandonata. Bisogna avere solamente in mezzo, me. In mezzo per trasportarla e mettersi d'accordo per evacuare tutto, il discorso è quello. Tutto lì. E fare come fanno i... non qui a Sassari, no, qua non fanno... è tutto mondezza, hai capito, per Daniele, ma c'è gente come fanno i visto in Inghilterra, vanno a cercare la mondezza, la sistemano, la mettono a posto, se la mettono in negozio, poi la mettono su internet, immediatamente la rivendono e subito la vendono. Una cosa così bisogna fare, no, come fanno qua a Sassari, che è tutto la madre in terra. Quando arriva a cercare, non è che sei dentro un negozio, ma sembra che stai andando in un cuile, cazzo. Non so già. E c'è l'Inghilterra, che dirà che si fa, ma cosa del genere bisogna fare qua a Sassari? E vai nelle cose, nelle ville vecchie, nelle cantine, cose del genere, non fai altro che sistemare, prendere la roba, sistemare, mobili anche antichi, cose del genere, li metti proprio a posto, prendi il negozio o su internet te li vendi e ti fai di là, ti vai, per dire spendi 100 euro per pigliarti tutta la roba, dopodiché la rivendi per 500, c'hai cioè guadagno. Quelli della mondetta non ha acciappato roba buona, buro. Quella mondetta sì, ci vuole un luogo, capito? Un luogo per poter aprire una cosa del genere, cioè vai, tu aspetti lì a quadrato per dire la gente butta mobile, eccetera, eccetera. Di un certo tipo, tu vai lì, ci guardi, ma lo porto via io. Quanto vuole, per dire, mi dia 30-40 euro, pronto, quindi te lo carichi, te lo porti in negozio, lo sistemi e te lo rivendi. Comunque la top sei povero, te la danno mi la roba usata, lo sai? Sì, me la fate sempre, l'autopacco, anzi, c'ho roba da buttare, l'autopacco io. Ma c'ho due ricevitori satellitari, di quelli Sky e l'altro, da Lampazzi, figura di tu. Il televisore me lo vai, sono stati tutti fuori, quelli che avevo, quelli a tubo. C'ho una busta piena di cavi con qua i metatori da 12 volt, la 4,5, la da 9 volt, capito? Quindi, adesso vabbè, ormai gli alimentatori sono tutti, sono meglio diversi da quelli di prima, sono già stabilizzati, c'è il microprocessore dentro e quindi la corrente è tornata completamente perfetta, capito? Lo so già lo so, è tutto diverso. Cristiano, ai, pure ti dà un po' di roba buona, ti dà un po' che sono piccato. Già lo so, ma sono dove quando fanno i, come si chiamano, devo aspettare il momento opportuno che fanno il cambio degli apparati, delle antenne, eccetera, eccetera. Mi sono solo così per fare cose, ti prendi gli apparati vecchi, le antenne, tutto. Li porti a casa e poi prendi, devi dare una bella sistemata e te li rivendi. Solo così puoi fare. Ti prendi l'appalto per poter fare una cosa del genere. E che ne ha, Antone, che ne ha più di questa roba? Ora, sta andando, sì. E già c'è la gente che ne ha di roba, lampada in garage, non ti preoccupare. Deve avere solamente le ganci giuste qua. Se trovi le ganci giuste, sai la roba che trovi, apparati vecchi di tanti anni buttati in qualche cantina, cosa del genere, che magari è roba del nonno, hai capito che non sa mai come il carburo funziona, eccetera eccetera. Gli agganci così li devi avere, sistemati poi gli apparati, eccetera eccetera, poi li vendete, tutto lì. Alcuni se il culo funzionano pure. Appunto, se il culo funzionano pure. Non è tutta roba molte volte da buttarci, eh. E poi gli danno una sistemata e già si sa che ripartono. Sì, poi sono stati venuti a Sassari, elettronica. Dico, io dicevo solo che sono fusato e Tonino GBC basta. Poi gli altri avevano fallito, eccetera, eccetera. Alcuni hanno chiuso perché erano già manni, e hanno chiuso. Ma giusto, al momento giusto, ritrovare, discorso è qua. A chi non vedrà pure, ma qualche cosa non c'aveva pure Mario qua. Sì, c'è mia roba, Mario ancora gli è rimasta. Mi ha telefonato l'altra volta Antonio. Dice, Antonio, ti serve qualche cosa? Ho detto, guarda, la verità è che non c'ho soldi da spendere, detto, per pigliarmi tutto quella roba che è rimasta, antenne, VHF, non me la faccio proprio un cazzo, gli ho detto. Se qualcuno ne ha voglia, gli ho detto, verrà e se ne prenderà, se no, detto, gli ha cercato solito la mondezza, detto, cosa vuoi dire, gli ho detto. Ma c'è la carta del CB? No, c'è del CB, non è, cioè, perlomeno non mi sembra averne visto anche del CB. Questa roba vecchia sarà. C'ha direttive, quelle già sono belle. Antenne per magnetiche, per V, per U, quelle già sono belle lo stesso. Cavo, eccetera, eccetera. C'è l'Europa. È rimasto poi uno di quegli apparecchi vecchi, non so se era un cavo, non mi ricordo. Tutto da sistemare. Ma pure è caro pure i brici, lo so, ora ci puoi fare, non lo so, mi ci hanno i figli un giorno, cosa vuol dire, la metteranno magari, c'è un cassonetto fuori di casa e se la pelano tutto. Antenne, cavi, quello che ci butteranno tutto e se la piglia in culo. Non penso che si tenga tutta quella roba a vita. No? E comunque il capo ne ha. Ehi, agli altri 213, a voglia è pieno. Non lo posso trattare io, se no diamo la premessa 213. Sì, vabbè, ma già si busca, non è che non si busca. C'è roba in giro. Tu immaginati a casa di Mario Chigli, nel cazzo tutto pieno di antenne di macchina con la macchina, tutto sotto sequestro. Hai capito? Lì invece Vita Vecchia e anche giù a Santa Maria, quindi non potrei un cazzo, finché non ti verrà il giudice, non se ne parlerà per niente, hai capito? Tu deciderà quando butteranno tutto via, andremo e raccoglieremo, cosa vuoi dire? Appunto, ma cosa c'è degli altri familiari? Sì. Ci sono 50.000 euro di debito, figurati tu, in quell'appartamento, più c'è roba di acqua che non ha pagato da 3-4 anni, figurati, e quindi è tutto sotto su questo. Quindi in pratica che si piglia l'appartamento serve pigliare i debiti, lì decide al giudice, hai capito? Non è che dici che il fratello o la sorella che è rimasto? Beh, noi ci buona più fatti cazzate, no? È un casino quella famiglia, era un casino. Si è appena fallatorio, era una cosa del genere, uno non c'era l'altro. Uia, per carità. Già la vita è sempre chiuso il coso. Il magazzino, se apri lì ti vai d'oro, ti vai. Se vai al magazzino guai, con tutta la roba che c'è di lì, degli strumenti che ci sono, ti scegli i migliori, ti fai d'oro, ti fai di lì. C'è poco oro dentro, cazzo. Un furgone carica di tutto è facile. Sì, c'è anche la macchina, sa per questo, c'è una macchina di quelle antiche c'è. E c'era dove c'è Seghinzi, parcheggiata, una 500 e una Panda c'è, quindi si becca con le tre macchine, ha fatto 13. Insomma, se si arrangeranno loro, e come fanno, scusa, chi gli paga l'affitto lì? Boh, non lo so, non so se ha lasciato testamento al cugino. Qualche giorno ci salgo al monte e se trovo il cugino glielo chiedo. Va bene, com'è la questione? Capo, se avevo un magazzino per abbigliare, come un fruscio. Lì ti vai, ci sono poche di cose, cazzo lampate. Tassisto, condensatore di tutto è cazzo lampato. Tutti classificati, ma originali, no, tassisto di quella, tutta roba così, vuole catalogata, vuole imbustata, eccetera, eccetera, c'è roba lì, tutto pieno, tu a Santa Maria non te ne dico nulla, quello che c'è, fino a sopra, a parte i piccioni. Ma dov'è? Dove c'è la Santa Maria? Poi c'è il mercato all'ingrosso vecchio, lì c'ha due cose, c'ha due magazzini pieni di roba di elettronica. Suga, aspetta che ti telefono un attimo, Antonio. Ehi. Ti sto...